Va ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo alle amarezze, che bellezza quando rime dai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia. Mentre giochi si scatena un'emozione, e buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì da Caffè Paglia, il contenitore sportivo di Radio Città Fujiko del lunedì mattina. Oggi veramente un po' arrabbiatelli qui in questo studio. Abbiamo portato a casa un punto che io e Fio, ma gli altri tutti sono andati molto male, quindi insomma devo dire che il clima non è quello positivo. Un saluto da Mingo da questa parte del vetro e del salotto buono dello Sport Bolognese. Non so come salutare Simone dopo il derby Ascoli-San Benedettese. Uccidimi. Ti uccido direttamente. Sì, sai, allora, tra le varie tipologie di sconfitte che noi conosciamo bene, tutti quanti qua, sai, quella Fortitudo, scusa, e la peggiore di tutte. La peggiore di tutte. Poi dopo ne parliamo bene. Dopo ne parliamo bene. Bene, so che è finito 1-0, so che c'è stata un'espulsione, so che insomma è stata una brutta partita. Ne parliamo dopo. La stella della trasmissione, il nostro Fio, come sta? Buongiorno, un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Voglio ricordare che questo è un programma contro tutte le mafie. Contro tutte le mafie. È molto importante perché noi parliamo della cosa più importante tra le cose non importanti, come diceva uno molto, molto sveglio, e ricordiamo che questo è un programma contro tutte le mafie. Bene, lo ricordiamo. Andiamo con un piccolo stacco musicale e poi ci buttiamo dentro questa puntata contro le mafie. Partiamo dal Bologna, si parte dal Bologna che va a Firenze. Allora, devo dire, posso dire la verità. Appena inizia la partita ho detto dai, un pareggio dai, può essere un risultato buono, perché la Fiorentina veniva da 1000 partite perse, giocate male, e dici vai a Firenze, inizia la partita, ma un pareggio potrebbe essere un risultato non da buttare via per un Bologna che sta comunque giocando bene, più 5 rispetto all'anno scorso fino all'inizio della partita della Fiorentina, una delle squadre che è migliorata di più insieme al Milan rispetto alla stagione scorsa, diciamo così, rispetto ai punti dopo 7 giornate. Si inizia la partita e il Bologna dimostra di non volere quel pareggio, ecco, che non gli basta il pareggio che io avrei firmato prima della partita. Purtroppo nella Serie A a 20 squadre può capitare ogni tanto di incontrare, calendario alla mano, non un'associazione calcistica, ma un'impresa immobiliare. Un'impresa immobiliare che sta ristrutturando uno stadio progettato da Nervi 100 anni fa con i soldi del PNRR e che sta avviando una grande lottizzazione per la costruzione di un centro sportivo nella provincia più instagrammata dell'universo, con un flusso di visitatori turistici incredibile, un prezzo al metro quadro della zolla irragionevole e un consumo del suolo ancora molto distante dalle eccellenze che abbiamo raggiunto in Emilia Romagna. Quindi l'impresa immobiliare va tutelata, è un brand italiano della cultura italiana del lavoro e anche del risparmio, perché noi siamo un paese di proprietari immobiliari, lo sappiamo, quindi va tutelato con ogni mezzo necessario. È inutile stare qui a parlare delle buste di legumi. Un po' arrabbiato. No, vabbè, potremmo parlare delle buste di legumi che sono i titolari della difesa della Fiorentina, potremmo parlare del capocannoniere della scorsa Serie A che è lì davanti da solo ad aspettare che arrivi una palombella, una scudellata, una palla sporca, potremmo parlare di calcio in questi termini. No, sarebbe veramente mortificante per i grandi successi dell'impresa immobiliare, della società immobiliare, non società calcistica, che in questo momento ha 4 punti nella classifica di Serie A, pur non giocando a pallone, perché non è una società calcistica, è una società immobiliare, ha 4 punti, di cui 2 non suoi, uno rubato sottraendone, due nella partita di ieri del Bologna, uno rubato a Pisa. Potremmo parlare del fatto che chi si somiglia si piglia, quindi questo consesso di palazzinari ha scelto come uomini immagine Pradè e Pioli. Pioli passivo aggressivo dopo il fischio finale della partita di ieri ai microfoni di Sky, che fa il galletto, fa il galletto. Stefano Pioli fa il galletto di Pradè, che settimana scorsa aveva pianto fortissimo dopo un rigore dubbio concesso agli avversari, il Milan della scorsa giornata, e della Lega Italiana di Calcio, che manda ad arbitrare questo incontro tra una squadra di calcio, una società calcistica e una società immobiliare, l'arbitro La Penna, dopo 11 mesi di inattività causa cazzate da ignominia che aveva commesso nella sua ultima gara ufficiale. Ci sono altre cose, ci sono altre cose di cui volete parlare? Sì, aspetta, ce n'è un'altra, ce n'è Simone, che fortuna che Fio è rimasto lucido e tranquillo, perché sì, esatto. Non sa ad aggravare il tutto. C'è anche che la società immobiliare di cui parla Fio si è scoperto essere detentrice del carrello con cui i ladri del Louvre hanno fatto il colpo. No. Sì, te lo giuro, Fio, adesso non ti volevo far arrabbiare di più, ma pare che siano coinvolti. Gli riconosco una certa coerenza estetica. Coinvolti anche in questo. Ok, parliamo di qualcosa di tipo, se io fossi stato in Castro dopo quel cazzo di gol, io mi facevo sostituire. Cioè, gol della Madonna, posso dire. Sai di quelli che proprio uccido il portiere, butto giù la porta, la curva, butto giù tutta Firenze? Che sì, gol! Tra l'altro, che gol! Il cross non è diretto a Castro, quindi è toccata la palla da un altro. In una frazione di secondo riesce a cambiare. Oh, è bellissimo! A cambiare l'angolo. La prende proprio come meglio non si può e la infila all'incrocio. È bellissima anche l'azione del secondo gol. Sì, con Cambiaghi. Sette giocatori che toccano la palla per andare in porta. E Cambiaghi che chiude, apre l'azione, l'apre lui e la va a chiudere partendo da sinistra e finendo al centro dell'azione. Quindi due gol bellissimi. Bello. Fino a lì un momento, cioè la partita era solo esclusivamente del Bologna. E dopo c'è un gol del 3-0 fatto da Dallinga, un bellissimo gol. Bello, anche quello. Tira anche molto forte anche Dallinga, quello, finalmente, per una volta nella sua vita. Purtroppo devono ancora arrivare le immagini da Firenze, dirà lo stronzo di Sky in diretta durante lo svolgimento della gara. E perché devono arrivare? Perché da Firenze le immagini partono con un corriere a cavallo. Perché l'Appennino è pericoloso. C'è i briganti, c'è anche alcune tribù autoctone tipo nativi americani dell'Appennino che assaltano le diligenze, quindi non è mai arrivata. A un certo punto arriva un frame a casaccio, non quello del fuorigioco automatico, arriva un altro frame a casaccio che ci segnala che con la palla in movimento non si sa da quanti secondi Orsolini è effettivamente dietro la linea dei difensori. Da lì è difficile poi parlare di calcio giocato, faremo un torto a chi segue il calcio. Non possiamo essere seri. Come fai a essere serio? Non puoi trattare razionalmente l'accaduto di ieri, perché è una partita così, non sull'episodio, ma su i 98 minuti. Io non la ricordo dai tempi di Juventus Bologna in Serie B al Delle Alpi. Sì, c'era già stato prima un rigoretto, una cosa con la mano di Dodò che non si era capito bene nel primo tempo. Soprattutto però il rigore su Bernardeschi è clamoroso, nel senso di pesta al piede. È clamoroso twice, perché dalla mancata segnazione di quel calcio di rigore l'azione va avanti, Holm, e chi dice Holm è ingenuo, siamo stati immaturi, io lo ammazzerei, cioè lo manderei veramente a guardare gli Harlem Globetrotter, certo. Cioè non a guardare il gioco del pallone, e dalla mancata segnazione l'azione prosegue, per il secondo giallo Holm l'arbitro non va a guardare, no, è assolutamente ridicolo. E spiace per l'esordiente Fortini, giovanissimo, che spero che venga bollato come tuffatore per tutta la sua carriera nelle serie A, B, C e D, gli spiace per sempre. Lui deve giocare fino a 41 anni senza mai essere preso sul serio da nessun direttore di gara, me lo auguro. E cosa possiamo dire? Sono molto contento che la piazza merita queste cose, la piazza di Firenze merita queste cose assolutamente. A noi il rammarico di essere stati derubati con metodo mafioso dalla compagine più scarsa della storia dei furti nel mondo del calcio. Anzi, non so, quasi mi dispiace che Dodò abbia sbagliato sotto porta al 98esimo con 7 giocatori della Fiorentina in campo, perché con la convalida di quel gol avrebbe dovuto espellere 7 giocatori dalla panchina. È vero. La panchina è entrata tutta in campo, perché la Fiorentina con la palla stava arrivando a Dodò, palla in gioco, non l'aveva ancora tirata, neanche colpita. E il rischio, appunto, arriva pure, c'è il rischio della beffa, rischi di perderla, perché il gol sbagliato Dodò è clamoroso, un po' come simile a quello che sbaglia Ranieri nel primo tempo. A Ranieri consiglio di giocare con la maschera, perché quando lo vedi in faccia, Batman meglio di Bruce Wayne. Sì, no, sì. Lo consiglio, perché quando vedi la faccia, proprio c'è una faccia come io. E tra l'altro, oltre all'amnistia totale che vige nell'area della Fiorentina, dove chiunque può fare qualunque cosa, c'è anche una bulla papale sulle figure di Pablo Marì e Ranieri, che non possono essere ammoniti. Assolutamente. Non possono essere ammoniti. Qualunque cosa fa. Allora, a questo punto, io mi auspico che nella partita del ritorno al Dall'Ara venga chiuso il settore ospiti, vengano schierati 11 bambini e la Fiorentina possa vincere 34-0. Io me lo auspico. Perché se la Fiorentina, arrivasse a metà aprile con 8 punti, si troverebbe un modo per penalizzare di 35 punti almeno altre 3 società, perché evidentemente questa squadra non può retrocedere in nessun modo, non retrocederebbe neanche se io andassi a fare la prima punta, non retrocederebbe neanche se io diventassi l'allenatore della quando Fiorentina. È retrocessa, beh, saresti peggio come prima punta che come allenatore, tipo, beh no, perché loro sono la Fiorentina comunque, non... e quando è retrocessa, poi in effetti è riuscita a vincere 2 campionati vincendone solo uno. Non è una cosa missile, ha delle capacità, non riuscirebbero a retrocedere neanche se Ranieri picchiasse i bambini all'ingresso in campo, non retrocederebbero nemmeno se invertissero nel calendario casa e trasferta e per tutto l'anno si presentassero nell'impianto sbagliato. Non possono retrocedere. I soldi del PNRR garantiscono che il grande patrimonio architettonico, frutto dell'ingegno umano, a forma di D di Duce, ingegnerizzato dall'architetto Nervi nel 1920 qualcosa, deve essere ricostruito con soldi europei, perché lo hanno deciso insieme l'estrema destra e la destra del centro-sinistra di questo paese. Matteo Renzi ha una parola molto pesante quando si parla di immobiliari a Firenze. E allora questo brand va tutelato. Ken è uomo partita Sky e il punto della Fiorentina è un punto di carattere. Un punto di carattere, sì. Finisce un po' così, raccontata in questo modo, vedendo la partita era tutta un'altra cosa. Viene un po' da dire, con Italiano in panchina sarebbe andata allo stesso modo? Nel senso che c'è stato un momento, anch'io da casa, che sul 3-0 di Dall'India, ho detto giochiamola ancora per 7 ore questa partita, così finisce 194-0, cioè continuiamo, perché veramente li stavamo pestando. Poi quel 3-0 non è stato 3-0, e quindi, però capisco che io in casa stavo anche sorseggiando uno spritz, quindi comunque ero abbastanza felice. Alle 18 era orario da spritz, ovviamente, la partita e quindi insomma io potevo averla un po' sottovalutata, ecco, questa situazione. Forse con Italiano in campo, che ha la capacità, è uno di quegli allenatori che in campo si fa sentire, forse la... Quello che vuoi, però lì sono decisioni arbitrali. No, neanche con Lobanowski avresti fatto 3 punti a Firenze. Se avessi segnato 14 volte, la Fiorentina avrebbe avuto 18 calci di rigore. E se Skorupski... così 4 le sbagli. No, se Skorupski ne avesse parato uno, saremmo andati a vedere il frame dello scarpino di un giocatore che entra in area per farlo ribattere. Passo lì, mi sono emozionato quando ho sentito Lobanowski. Lobanowski, sì. Un brivido è arrivato sulla schiena. Comunque rimane il fatto che il Bologna c'ha subito mercoledì, c'è il turno infrasettimanale. Noi abbiamo un altro derby mercoledì. E voi avete il derby, il ritorno del derby. No, la Coppa Italia. Stavolta ha giocato in casa. Sì, quindi c'è il Torino che ha vinto la partita di ieri e... insomma, sembra aver preso una direzione interessante, quindi sarà una partita molto importante, bisogna tornare a recuperare i tre punti, diciamo così, persi. Vediamo il capitalismo di relazione mafioso quanti punti decide di assegnare al Torino, ah, okay. Che c'ha comunque Cairo come capoccione, andiamo, perché noi potremmo andare a vedere la Kings League o no, le competizioni, prego, di Orientini. Ti vengo a picchiare se guardi la Kings League, ok? Ti vengo a picchiare l'Orientini. Se io andiamo a vedere l'Orientini, un minuto di Kings League, io ti vengo a picchiare. Allora, lo dichiaro qua davanti a tutti. Il rischio può esserci se la partita di mercoledì finisce più o meno come questa, abbandona il calcio, prego, sicuramente. Allora mi rivolgo all'AIA, all'Associazione Italiana Arbitri, vi prego, ragazzi, mercoledì. Questo è un uomo sposato, è giovane, nel pieno delle sue forze. Non possiamo perdere. No, cioè, lasciatelo stare. Però il rischio c'è, il rischio c'è. E ovviamente ritorna tutto interessante, anche perché la classifica è interessante. Ho visto le caldarroste, le ho anche assaggiate. È vero, e sono buone, quindi comunque vuol dire che la classifica è ora di guardarla. E il Bologna è quinto in questo momento. Nonostante il furto con la rapina a mano armata con l'aggravante del metodo mafioso che ha subito ieri. Sì, questo l'avevamo già detto, credo. No, è quinto nonostante, dobbiamo sempre, perché se uno vuole sognare va a vedere quei due punti persi a Lecce, giusto? No, perché quello è il gioco giusto del pallone. Sì, quello è il risultato. Il risultato era giusto in quel poi caso. Poi Lecce aveva meritato. Di pareggiare sicuramente, però sono quattro punti che sono esattamente quelli che ti tolgono dalla testa della classifica, cioè stiamo parlando comunque di un Bologna che sta giocando allora, molto posso bene. Posso fare un aggancio? Scusa, se proviamo, non dica fai serio, ma perlomeno io ricordo perfettamente da questi microfoni quando noi quasi parlava dell'ultimo step che serviva a Bologna per diventare una contender, partendo da un presupposto matematico che era molto semplice, cioè ogni anno voi avete tipo dimezzato la distanza che avete dalla testa. Prima eravate sempre a meno 15, poi finivate a meno 12, poi a meno 10, poi alla fine adesso siete arrivati a un passo dal podio fisso e siete effettivamente a 4 punti dalla distanza. Dai, le due capoliste. Capite? Che sono il cammino che ha fatto il Bologna negli ultimi 3 anni è largamente il più bello d'Italia, insieme all'Atalanta che porta a casa la Coppa UEFA. Purtroppo questa è questo è un tuo parere personale, perché è evidente che le macrostrutture del calcio italiano non abbiano interesse in questa tua analisi. Ecco, non lo so, la Taranto alla fine la Coppa l'ha vinta. È riuscito a vincere in Europa una Coppa. Buttala via. In questo momento è ovviamente il risultato migliore è vero che ha iniziato prima del Bologna, il Bologna sta seguendo. Sì, ma con lo stesso uomo al comando. Sì, sì, sì. Lo stesso uomo al comando che è assolutamente uno dei migliori direttori sportivi d'Italia. Però quando prende quello che costa tanto lo sbaglia, cioè com'è possibile? Sono i direttori che preferisco, proprio posso dire, perché sono clamorosi nel trovare il giocatore, questo chi cazzo è? Invece il giocatore della quando ne ha trovati i Sartori? Sì, che sono usciti anche, le ultime cessioni, Ndoye, quanto era pagato. Perfetto, capito, e poi chi prende Immobile, oppure Bernardeschi, oppure Dallinga, capito, 14 milioni questo da Dallinga, insomma. Carson, i tre acquisti dei tre anni di Sartori più costosi sono stati Carson, Dallinga e Roma. Immobile, Benedeschi e parametro zero, lo so che sono arrivati, però lì l'ingaggio immagino che sono ovviamente un ingaggio importante, però i tre proprio in cui hai speso tanti soldi, sì, Dallinga, Carson, Dallinga e Roma. Quest'anno Roma che purtroppo rischiamo di perderlo, perché ieri l'ho visto veramente deluso dalla sostituzione. Lui è entrato al 60esimo ed è stato sostituito al... Era una scelta obbligata a causa dello screanzato vestito di giallo. Sì, ovvio che era su quello. È stato offeso dalla tribuna di Firenze, lui e Bernardeschi, tra l'altro Bernardeschi ex, con epiteti razzisti e omofobi, ma va bene così, perché a Firenze si può fare, si sentivano su Sky, c'era una signora in viperita, ma va bene. Giusto. Che tirava nomi a Bernardeschi proprio fino a chi aveva. Ma loro sono simpatici. Si può fare. Ma loro non è mai cattiva. Non c'è nessun codicillo che impedisce alle società immobiliari di radunare i loro soci e dire finocchio a Bernardeschi. Non c'è scritto nel regolamento del calcio, non c'è questa. Probabilmente questa una società immobiliare lo può fare. Era quella che, non so, stava lavorando a Sky, era una di Sky, probabilmente. Perché era proprio. Si sentiva nel microfono cioè, direttamente. Vabbè, questo per fortuna è solo la prima parte della trasmissione. No, prima che io faccia, lo facciamo in pasticceria. Prima, che io faccia apologia del pezzotto, che sarebbe il prossimo passo, credo che sia non lo so, sia giusto prendersi una pausa, dai, tra poco c'è anche la pubblicità. Rientriamo in diretta, seconda parte di Caffè Paglia di quest'oggi. Abbiamo dato una camomilla al buon Fiò, ecco, e siamo riusciti. Un pasticcino, un po' di cioccolatella, così è ritornato un po' in sé. Allo zenzero, sono un ragazzo allo zenzero. E quindi possiamo buttarci dentro alla top 5 di oggi. Qualcosa di bello c'è stato, la giornata, meglio della scorsa. La giornata di Serie A aveva degli innegabili vantaggi, tipo no partite lunedì sera. È vero, era già tutta finita. Capito come, ragazzi. E poi erano anche partite divertenti. Erano anche partite divertenti, tant'è che noi abbiamo eletto come due partite divertenti, due partite che, diciamo, a livello di classifica non erano quelle sexy. In teoria sì. Così detto. E abbiamo trovato due protagonisti, due grandi protagonisti, tra i pali di due squadre che non sappiamo quanto vogliano chiedere effettivamente a questo campionato. Quanto possano chiedere. Anche quanto possano chiedere, quanto esattamente. Possono. Ma che hanno... Attenzione, in tutte e due le accezioni, perché potrebbe essere pure... Non si rendono conto che potrebbero chiedere di più, ok? Assolutamente. Sia puntando in alto che puntando in basso, non sappiamo dove possono arrivare. Un protagonista tra i pali è uno dei miei pallini, è uno che proprio da tutta la stagione che regala queste chicche. L'altro è stato un instant classic, un last minute hero di una gara da tre punti molto molto tesa e affascinante, proprio come agone del gioco del calcio. Parliamo di Caprile e Paleari, protagonisti del nostro primo punto in top 5. Pareggia il Cagliari a Verona e protagonista assoluto è Elia Caprile, che era già 25 Caprile, adesso è anche Sant'Elia Caprile. Partito perché ieri, è il fattore partita ieri. Sì, Caprile clamoroso. Uno delle motivi per cui le statistiche non raccontano tutto del calcio lo puoi anche vedere dal fatto che il Verona ha i due giocatori che hanno tirato di più nella Serie A. I due giocatori che tirano di più sono Orban e Giovane. Allora, Giovane, un'altra presa di quello. Noi parliamo sempre del nostro direttore, uso un plurale maestatis, ok? Ok. E Sartori, niente da dire, top top. Ma Sogliano del Verona sono almeno 2-3 anni, più o meno lo stesso lasso di tempo di quando Sartori è qui, che fa delle campagne acquisti notevoli. Ma adesso sono giovane, non mi ricordo neanche da dove l'hanno beccato, ma cioè. È sì, un'altra presa, certo, di quelle notevoli. E Orban, che era quello che bombardava nella Jupiler League, per lui già si sapeva un po' di più, fosse un bel cecchino, un bel animale d'aria. Però raga, Sogliano, applausi. Sì, bravissimo Sogliano, devo dire che con pochi soldi riesce sempre a tirare fuori giocatori interessanti. Ricordiamo anche quella stagione che ha rifatto la squadra a gennaio, che era ultimissima e si è salvata. Volevo solo aggiungere, chiudo, su Sogliano e sul Verona in generale, e gli sta esplodendo, è forte, anche il gioiellino della primavera dell'anno scorso Cisse è a Catanzaro, è ormai al secondo terzo gol, domenica ha portato i primi tre punti se non sbaglio, anche lì hanno lavorato bene anche su tutto il settore giovanile, bravi. Mi dispiace dirlo perché è Verona, ma bravi. Con pochi soldi, ma sicuramente con tanta conoscenza. Rimanendo al Bentegodi, segnaliamo bello il gol di Felici per gli amanti del vintage su assist di Pavoletti. È vero, c'è ancora Pavoletti. È ancora dei nostri. È Gagliardini quello che ha segnato o è il nipote, tipo figlio d'arte? Sempre lui. Beh, è uscito da giovane lui. Svincolato comunque, preso a parametro zero dal Verona. La faccia del regista mi dico Gagliardini. Ok. Fatto cuoricino per Gagliardini. Bene, sì, no, era quel Gagliardini lì. In effetti, quando ho sentito il primo realizzatore, ho saputo che Gagliardini giocava a Verona. Andiamo al Grande Torino, l'altro protagonista tra i pali è Paleari, che vede i suoi andare sotto subito in avvio, al settimo minuto segna Torsby. Sembra una di quelle partite in cui, dopo aver tanto giocato a pallone, aver tanto manovrato, la squadra riuscirà apposta a finalmente capitalizzare. Invece subisce il rimontone del Toro, autogol molto sfortunato, davvero tanto, di Sabelli, bellissimo bollo di Maripana al 90°. Che gol al 90esimo, bam, una ammazzata al volo, stupendo, mamma mia che collaccio. C'è un minuto d'oro di Paleari dal 94esimo in avanti in cui fa due parate entrambe di piede, tutto istinto, zero allenamento da portiere. Fotoniche che spiaggia, valgono la spiaggia, da olandese in spiaggia, da tedesca in spiaggia, bellissimo. O da Garella, non so se vi ricordate, certo, il super portiere, certo, che vinse, certo, scudetti sia col Verona che col Napoli. Ma dobbiamo dire la cosa più importante di tutte su Torino, la divisa nera al Toro gli dona. La mia compagna, che è molto elegante, lo conoscete, mi dice che quest'anno va un botto il nero con il cioccolato. E ieri il Toro c'era una divisa nera, però con i simboli, i loghi, granata. Devo dire niente male, gli dona. Gli finalmente dona. Una decente l'abbiamo trovata, insomma, dopo tante peripezie, tante peripezie. Tante magliette brutte, devo dire, che continuano a infestare la nostra vita. La nostra vita. Dicevamo appunto il Torino che va a vincere 2-1, avversario prossimo del Bologna, aveva battuto Napoli e Roma. Ma che classifica ha il Toro? Te lo stavo per chiedere, appunto, perché sembra che Baroni abbia trovato la strada. Però è dodicesimo in questo momento. Sì, ma ha 11 punti, che sono tanti. Quelli che preoccupano sono i 3 punti del Genoa, solo in fondo alla classifica. È grave la situazione per Vieira, soprattutto perché non rispecchia quello che abbiamo visto in campo. Ma nemmeno un po', non voglio dire che la Fiorentina ha 4 punti grazie alla partita di ieri, perché sennò poi Fio ridagli la camomilla, per favore, i pasticcini sono finiti. Dobbiamo dire anche le cose vere ogni tanto, anche se non sono belle le dobbiamo dire, non dobbiamo dire le bugie, sennò facciamo piangere Gesù Bambino. Quindi potrebbe essere stata comunque a 3 punti anche la Fiorentina insieme al Genoa, sarebbe stato più giusto sicuramente. Torino sì, dodicesimo con 11 punti, ha perso anche partite, insomma è altalenante l'andamento in questo momento. Come diceva quello, ha trovato la strada, ma è quella sbagliata. Però è sbagliata, vedremo, speriamo che la strada sia sbagliata, visto che mercoledì sera sarà qua a Bologna. 5 punti del Verona, prima delle salve in questo momento, e 9 quelli del Cagliari, così queste due partite le abbiamo incasellate coi loro 4 posti in classifica. E allora risaliamo un attimo la classifica, andiamo al secondo punto della giornata. È una partita non bellissima neanche un po', che ha il fascino delle sorprese da serata di gala, cioè in cui tutto è scritto ma tutto può andare storto da un momento all'altro. Viene ripresa così con un po' di tanto metodo, un pizzico di fortuna, e poi insomma c'è un altro grande rammarico per il Pisa, diciamolo ancora una volta, che ha rischiato l'impresa, viene via con un punto per cui avrebbe firmato col sangue da San Siro contro la già fu capolista Milan. Esatto, si ferma il Milan, nel senso che appunto con un punto solo perde la testa della classifica, ma gli è andata anche bene perché è riuscita a recuperare la partita proprio al 90esimo, un po' all'Allegri, mi viene da dire. Ed era andata sotto un minuto prima, cioè non è facile pareggiarla quando vai sotto a 2 minuti dalla fine, e questo gli va dato atto, perché poi alla fine il gol da fuori, non mi ricordo, lo sbaglio la pronuncia del ragazzo che segna, ok, ma come si chiama il ragazzo? Atecame. Atecame, buon per lui, un bel gol, no, alla fine non neanche sto tiro irresistibile, forse non lo vede partire bene, non so come abbia fatto effettivamente ad entrare, però yes. Lì c'è un argomento affascinante a livello, ne parlavamo in riunione di redazione, di filosofia del diritto. Ci sono 3 giocatori del Milan in fuorigioco, nessuno tocca il pallone, ma Fofana fa un velo da ballerina che forse impalla un po' troppo Schemper. Si era deciso che l'area piccola è la casa del portiere dove non devono succedere queste cose. Fuori l'area piccola non so che senso abbia stabilire se un fuorigioco è attivo o non attivo, quando comunque, pur non deviando il tiro, impalla il portiere. Lo sappiamo, abbiamo tutti giocato a calcio qua, sappiamo benissimo, e lì basta il minimo movimento di qualcuno che anche solo intorno alla traiettoria del pallone, e tu portiere c'hai miliardi di riflessi che ti vengono in insomma puoi prendere, perché mi sembrava strano che entrasse quel tiro, non è anche i palloni, devo dire, esatto. I palloni si muovono in maniera un po' diversa rispetto a una volta, vivono di vita propria, ogni tanto sono dei tiri veramente con altri palloni secondo me non avevano lo stesso risultato. Però questo è il Milan che appunto perde la testa, il Pisa che è comunque a 4 punti come la Fiorentina. Pur giocando un calcio molto più interessante, perché è una squadra di calcio. Esatto, a cui chiedere scusa, perché comunque nello scontro diretto per non retrocedere la Fiorentina gli ha sottratto comunque un punto, due punti facendone uno. Due punti, cioè ne ha tolti due. Evita, se ti viene in mente qualcosa che c'ha a che fare con Firenze nei prossimi 20 minuti, molla. Ah, okay, cambia discorso, pensa a qualcos'altro, pensa a Castro che la sbatte all'incrocio. Faccio così, pensiamo alla cosa. Va bene. Dobbiamo dire le cose vere, le dobbiamo dire, è un esercizio di onestà intellettuale verso chi ci ascolta. E segnaliamo che per il Milan ha risegnato Leao, che fino adesso è stato uno dei grandi punti interrogativi della gestione Allegri, di quella compagine lì un po' strana. Sì, Leao sembra, beh, sappiamo che Simone non ci crede anche in queste sparate, vedremo ovviamente se vince lo scudetto il Milan e Leao diventa capocannoniere, a Simone qualche parola gliela dobbiamo fare, ma siamo lontani da quella situazione. Non succederà. Se dovesse, però, tu potrai fare. Pago la cena, ci mancherebbe. Questo è. 17 i punti del Milan in questo momento, a un solo punto dalla vetta. C'è più gioia per il punto che rammarico per non averla vinta, secondo me sì, anche se la vetta comunque è lì, il campionato è lungo eccetera, però il cortomusismo allegriano ha marcato anche, no, ma sicuro varrà la prima opzione. Questo è un punto guadagnato, hanno un coach perfetto per questo tipo di situazioni, invece di dirgli: oh, ma che cazzo fate, siete in Milan, cioè rischiate di perdere col Pisa, ma io vi spacco le ossa da martedì, vi faccio un culo così, 1000 gradoni a testa. No, invece no, è un punto guadagnato, va bene così, perché il calcio di oggi, pure il Pisa può venire qua, bla bla, è l'uomo perfetto. Innanzitutto volevo fare i complimenti ai ragazzi. Esatto, andrà così e quindi tutto molto tranquillo, molto soft. C'è Milan-Atalanta martedì, credo, cioè domani, quindi una bella sfida con anche lì situazioni strane, spogliatoio che già un po' ribolle. Carnesecchi ha avuto, cioè è uscito dalla partita dicendo, criticando la squadra, criticando se stessi e la squadra. Juric si è incazzato di brutto, ha detto: no, Carnesecchi deve pensare a parare e non a parlare. È una dinamica che ha fatto anche un altro portiere della Serie A dopo la partita in cui dovevano perdere 6-0, poi non è andata così, e con l'allenatore che invece ha fatto il passivo aggressivo in televisione, ma non ne parliamo perché ne abbiamo già parlato. E non c'è in top 5 Cremonese-Atalanta perché ha detto tutto la ragione di Stato, pagina Facebook. Tra le tante cose che ci aspettavamo dalla vita non c'è quella del 39enne Jamie Vardy che fa una capriola a rischio di spezzarsi la spina dorsale sotto lo striscione. Tenerife grigio rossa, pareggio clamoroso. Jamie Vardy, quando segna Jamie Vardy è come se segnasse uno di noi. Sì, infatti, insomma, segnaliamo non fuori classifica. All'atere, ingiudicato, cioè troppo fuori classifica. Anche perché sul prossimo punto devo ammettere che ho una perversione. Adesso non vorrei dire, è da un paio d'anni, diciamo da un anno e mezzo più che altro, perché un paio d'anni che ho la perversione di andare a leggermi il sito di internet di Tutto Sport. Oh, mi piace, cioè, è una pratica BDSM. Sì, un po' così. È una cosa laida, proprio da pervertiti. Infatti me ne vergogno, però continua a capitare, perché la stagione della Juve è comunque sempre una sorpresa. È sempre una sorpresa, un vulcano di emozioni. Certo, a giocare a calcio forse aiuterebbe a commentare diversamente la stagione della Juve, visto il trend degli ultimi anni. E abbiamo superato il momento in cui Cambiaso era il miglior giocatore di movimento, l'abbiamo superato da recentemente poco. Adesso il problema è trovare il miglior giocatore di movimento della Juve. Ieri, in due squadre in difficoltà sia di testa che di gamba, che di classifica anche, perché entrambe hanno finora meno punti di quelli che si aspettavano di avere, con due situazioni societarie entrambe sparpagliate ma molto diverse, si affrontavano e la prima cioè il primo non prenderle, possiamo dire, sarebbe stata il sottotitolo perfetto di quella partita. Alla fine la spunta la Lazio di Sarri, anche perché ha fatto gol, cosa che la Juve sembra far molta fatica a fare. Non vince da tipo 7-8 partite, leggevo che tipo nuovo record eguagliato. Il problema qua forte, che forse non si è ancora capito bene, si è perso completamente il concetto di quello che significava la parola Juventus una volta, fino a 6-7 anni fa. A me sembra tanto una società in transizione. Ho detto società, non una squadra di calcio, perché come al solito quasi forse si sbaglia anche qui. Quando si parla di Juventus oggi, secondo me si continua a sbagliare l'obiettivo, cioè bisogna capire John Elkann che intenzioni ha. Secondo me ha delle intenzioni serie che però prevedono sbarazzarsi della Juventus, che è una cosa che io mi auspico da tantissimi anni, ok? E io ho la sensazione che uno dei nuovi sponsor della Juve che aveva a che fare una società di transizione tra criptovalute e in euro, cioè no, non producono cripto, sono quelle società che fanno la transizione, pare sia effettivamente tanto tanto ricca, e io credo che da qui a breve potrebbe fare un aumento sulle quote. Qui andremo in un discorso che non c'entra niente col calcio, ma se la società non va o è in stand by, dalla squadra tu non puoi pretendere nulla, come quello che, cioè, non hanno un vero allenatore in panchina, anche perché il concetto di società che non funziona è dovuto al fatto che comunque di soldi ne hanno spesi tantissimi, non è che hanno fatto mercato, cioè, stiamo parlando con la Lazio che non ha potuto fare mercato per L'operazione di calciomercato più disperata che io ricordi a memoria è Renato Veiga l'anno scorso, prestito secco pagato due volte, cioè operazioni di mercato davvero ingiocabili, spendendo soldi male, molto male. Colomboni uno stipendio mostruoso per un prestito, anche lì infatti non ti è rimasto, l'avresti voluto prendere ma non avevi soldi per prendere. Ma anche le scelte che fai sui giocatori stessi, cioè tu un ragazzino su come Usen non hai fatto mai debuttare in prima squadra e ce l'avevi quando aveva 17 anni, lo dai via al Bournemouth e lo vende a 60 milioni al Real Madrid nel giro di 700 giorni. Voglio dire, ed è soltanto uno dei tanti nomi, c'è qualcosa, ma ripeto, finché tu non hai una società che sceglie il nuovo direttore, che poi andrà a scegliere i collaboratori, che poi sceglieranno il coach, con che dovrà dare l'idea che tu vuoi perseguire, lo so che diciamo sempre le stesse cose, però se tu non parti da là, non, dopo, cioè, guarda, non ci sono giocatori che possono indossare quella maglia oggi nella Juventus. Perché se il capitano è Locatelli, sei messo malissimo. Abbastanza condivisibile questa chiusura. Parlando di calcio giocato, segnaliamo Basic che fa un gol alla Vecino su assist di un attaccante della Juve. David, forte. Beh, quello l'ha pagato poco almeno. Jonathan David è un altro di quei giocatori. Guardate che non si è ancora capito, sottolineiamo. La Juventus in questo momento è esattamente come lo United in Inghilterra. Faccio fatica a giudicare un giocatore che gioca oggi nello United, come faccio fatica oggi a capire il vero valore di giocatori di Juventus e United, perché sono in due contesti che sono completamente allo sbando. E quindi, cioè, Højlund sembra essere di nuovo un giocatore di calcio, come McTominay sembra essere il miglior giocatore di calcio della stagione, ed erano due scarti della squadra peggiore del Regno Unito. Sì, sì, è vero, quindi, vero. Lì c'è questa situazione, però attenzione, ne parleremo dopo nella parte del calcio internazionale, che il Manchester è arrivato a tre vittorie consecutive. Il parrucchiere, il barbiere del tifoso inizia ad affilare le forbici. Velocemente, mancano due punti, sì, e stiamo andando verso l'alto della classifica. Per chiuderla, c'è solo un punto tra Juventus e Lazio, 12 quelli della Juventus, 11 quelli della Lazio. Segnali positivi in casa biancocelesti: Isaksen è tornato un giocatore di pallone, e questo è molto bello. Andiamo avanti con la top 5. Ora, se mi avessero detto a luglio sotto l'ombrellone, guarda che non solo Gasperini va alla Roma ma fa miglior difesa della Serie A all'ottava giornata, io ti dico: te sei pazzo. Allora, su Gasperini alla Roma il senso comune era sempre lo stesso: può finire molto bene come può finire in un mare di cacca. Sembra che per il momento stia filando verso la direzione bene. Già Gasperini, che però comincia a filare un po' di spigolature di carattere con Dybala, però finché rimane una cosuccia così, anche perché Gasperini sottolinea una cosa che per me era elementare, cioè ha detto chiaro e tondo a Dybala: è inutile che scenda a centrocampo, deve rimanere nell'area e pensare a fare gol e assist. Ed è un tema che secondo me persegue da Dybala da tanto tempo, che ricordiamo il Palermo acquista come punta e lo utilizza come punta o come sottopunta, mezza punta, ma sempre dentro l'area come cecchino da rigore. Dopodiché subisce una trasformazione nel momento in cui la Juventus non riesce a sostituire Pogba, e da lì comincia tutto il giro. Adesso ci ritroviamo con un giocatore che effettivamente non ha mai trovato la sua vera dimensione. Ieri torna a segnare su azione dopo 4 milioni di anni. È vero, è un sacco di tempo. Ce l'ho fatta a calcio, quindi lo so. Voglio benissimo. Sì. 10 partite l'anno, il più forte del mondo. 10 partite l'anno. Il giocatore a cui voglio un bene della mano è che secondo me doveva e poteva avere una carriera molto diversa. Probabilmente non doveva andare alla Juve, mi viene da dire. Ma ci sono anche altri segnali positivi da parte della Roma, che ha la sua forza nel reparto arretrato, cioè il non prendere gol, e diciamo che contro il Sassuolo era anche un compito relativamente facile da onorare. Davanti segnaliamo sempre più dentro al gioco Pellegrini, e un Dovbyk che fa la boa, fa sponda, gioca, si sbatte, forse si sta avvicinando a quello che gli viene richiesto come task nel calcio, manovrato soprattutto largo più che verticale da Gasperini. Sì, anche perché questa Roma in cui non hai bomber, centravanti, diciamo, che spiccano per la sensazione del gol, Dybala deve giocare davanti, essere lui quello che fa gol, perché sennò se li aspetti da Ferguson e Dovbyk problemi, insomma, li aspetterai ancora. 8 gol fatti, 3 subiti in 8 partite, capolista con 18 punti, e direi che c'è poco da dire. C'è poco da dire e poco da, insomma, da dire. Il problema di Gasperini probabilmente, almeno al mio parere, poteva essere l'inizio. Nel senso, primi 2 mesi potevano essere quelli più complessi per lui. In questo momento è uscito benissimo. L'unica che sta facendo gli stessi punti della Roma è il Napoli. È il Napoli, impegnato nel big match di giornata Napoli-Inter, a una cornice veramente strepitosa, quello davvero prodotto da esportazione. Se quello che gira intorno ai giocatori in campo fosse un po' meglio, sarebbe un prodotto da esportazione ancora più credibile. Perché, così, senza fuori di polemica, in una giornata in cui la classe arbitrale, non lo abbiamo detto, ma c'è un probabile rigore molto probabile per la Juve su Conceição nella partita contro la Lazio. C'è Mario Gila che c'ha le mani sui capelli. Mario Gila io lo adoro, lo sapete, uno dei miei giocatori preferiti, ma se lui c'ha le mani nei capelli, io non so tu, arbitro, a cosa stai pensando, sinceramente. Cioè, voglio dire, lì quello è chiaro, sì, è vero. Beh, il rigore con cui va in vantaggio il Napoli nella fase della partita in cui l'Inter sembrava averne di più, il primo tempo è di chiara marca interista, ma va in vantaggio il Napoli per un calcio di rigore concesso per un atterramento di Lorenzo, che viene fischiato senza contributi, pare, dalla sala VAR, mentre il pallone è già dall'altra parte del campo, con un ritardo un po' oscuro, e quello è rigore molto molto poco. Ma perché per l'arbitro non era rigore, viene richiamato, è l'assistente che consegna il rigore all'arbitro, perché l'arbitro lascia andare e si gira e segue l'azione. Sì, infatti a un certo punto fischia perché è chiamato e va a vedere, esatto, e va a rivedere al VAR. Quello è un rigore appunto dato dal VAR in questo momento, quindi se è il VAR poi che fa queste valutazioni, cioè diventa un problema la gestione del VAR, nel senso che questi sono rigoretti. Ecco, se allora, se vogliamo, ce ne sono 12 a partita, 12 in ogni partita di rigori così. Se vuoi scegliere, essendo che il VAR dovrebbe dare uniformità alle decisioni arbitrali, essendo fatte diciamo non subito lì a caldo nella velocità dell'azione, ma rivedendole le azioni, dovresti avere un termine che sia quello. Sul fuorigioco, purtroppo, mi viene da dire, perché il fuorigioco di Orsolini ad esempio era veramente di millimetrico, però c'è una regola, c'è una situazione, quella è, e anche i 5 centimetri sono bastano per essere fuorigioco. Noi che guardiamo la NFL, quante partite abbiamo visto decise da tipo 0,5 millimetri, quando stanno lì a contare la yard, quante? Ti ci devi un po' abituare, però hai ragione tu, almeno c'è una regola chiara, è quella. Buona. Sul fuorigioco, secondo me, ha scelto una regola, potevi scegliere leggermente diversa, un po' di più, un po' di qua, però comunque sarebbe stato uguale, no? Tu, se quei 5 centimetri li dai di gioco, è al sesto centimetro che è rigore. Nel secondo tempo l'inerzia, che era stata chiaramente interista, si sposta completamente dal lato del Napoli. McTominay fa un gol clamoroso, Spinazzola fa l'imbucata, lui si trova da solo a tu per tu con Sommer che non esce, e invece di arrivare più sotto possibile per vedere il primo movimento del portiere, decide di tirare da una zolla da cui nessun calciatore, altro calciatore di Serie A avrebbe tirato. E il gol più bello della giornata insieme a quello di Santi Castro, secondo me. Non lo so, perché quello di Anguissà, guarda che bello tanto, eh. Anche Anguissà, sì, che sta segnando spesso. Sì, c'è spazio per un rigore trasformato da Çalhanoğlu, un battibecco tra Conte e Lautaro, abbastanza divertente, con Lautaro nel gesto uewe, e Zambo Anguissà che su assistenza di David Neres, schierato tipo prima punta, ma anche no, diciamo, in una posizione offensiva a svariare, interessante. Si può dire bravo Conte qui su Neres, si può dire, qui è stato bravo. Sì, anche perché davanti ha qualche problema, evidentemente Lucca non ha il livello, l'abbiamo visto in Champions, insomma, dove la scoppola è stata forte, ne parleremo dopo nel calcio internazionale, Lucca non è ancora a livello, Højlund era fuori, quindi Lukaku è ancora infortunato e ha provato nel resto. 3-1 finale per il Napoli, che va nella vetta della classifica, rimane dietro staccata l'Inter a 15 punti, sono proprio quei tre punti lì. Ci buttiamo dentro a quello che è il calcio internazionale, andiamo a vedere quello che è successo nel fine settimana. Direi di partire dalla Spagna, mi sembra giusto, anche perché c'era il classico che Simone ha seguito per noi. A tratti, ho visto gli highlights prolungati, c'era una partita molto più importante ieri da seguire, non so che cosa farmene del classico quando c'era il derby, dopo ne parliamo bene. E vince il Real, quindi Xabi Alonso porta a casa il suo primo classico, dove c'è un Mbappé particolarmente in forma e soprattutto quest'anno mi sembra molto più centrato su quello che deve fare, ok? Su dove deve andare a pestare le zolle. Oddio, ogni tanto ancora si sovrappone con Henry, però con Henry, con Vinicius Junior. Sai perché ho detto Henry, però vabbè, ok? Vediamo. Adesso, mi dicono di una rissa finale, di cui ho visto soltanto all'inizio e poi dopo avevo da fare, non sono più riuscito a vedere. Però poco incisivo, non come piace a noi, diciamo. Va. Allora, nonostante la polizia in campo, rissa molto poco virile. Dobbiamo dirlo così. Bene, lo diciamo. Però ho avuto poco tempo, ma abbastanza per vedere che Flick, niente da fare, non impara. Non ce la fa. Sempre con tipo la difesa sopra la linea del centrocampo, ripeto. In mantra, tu segui quel tema tattico, ci sta, ti ha portato a vincere, quello che vuoi. Però anche capire le situazioni, no. Cioè, io da un allenatore lo pretendo pure che capisca quando è il momento di fare il fenomeno, quando un po' meno. Però lo faceva, era anche così il Barcellona di Guardiola, che era eccezionale, squadra clamorosa, ma non cambiava mai il suo credo. Calma, questa qua è una squadra magnifica che può diventare ancora più bella. Quella lì, parliamo di una delle prime tre squadre della storia del calcio. Livello troppo alto in ogni singolo giocatore che ti permetteva di fare veramente quello che ti difende sulla linea dell'area avversaria, ok? Però con chi? Con Busquets davanti alla difesa, e già ci fermiamo qui perché non può bastare, no? Sì, ne aveva Xavi, Iniesta, il centrocampo di quel Barcellona, poi c'era Messi al top, quindi insomma. Comunque il verdetto del campo è abbastanza impietoso, perché il Real poteva vincere con un vantaggio ancora superiore a quello del 2-1 finale. Cioè, quindi meritata, vittoria sicuramente meritata. E a questo punto inizia la fuga del Real Madrid. Real Madrid che in vetta alla classifica in questo momento è ovviamente con un distacco di 5 punti. Insomma, è vero che è iniziata adesso il campionato, sono 10 le giornate in Spagna, però insomma inizia a essere un primo vantaggio. Al terzo posto il Villarreal, che continua a ben giocare. Continua a segnare, a giocare bene, bravo lui, bravo. Anche se perdono il derby col Valencia. È vero, quindi questa settimana rimangono a 20. Poi Espanyol, un po' a sorpresa, al quarto posto con 18 punti, davanti all'Atletico Madrid, che ha ancora una partita da giocare. Che credo sia forse questa sera. La devono. Devono giocare. Loro hanno il lunedì. Le basche che hanno fatto. Le basche abbastanza male, perde l'Osasuna in casa contro il Celta di Vigo, che il Bologna affronterà a dicembre in Europa League, perde in casa l'Athletic Bilbao contro il Getafe, vince finalmente Real Sociedad in casa contro il Siviglia. È importante questo. In fondo alla classifica, un po' a sorpresa, il Girona, che solo qualche anno fa avevamo visto addirittura lottare per il titolo. La Liga, due anni fa, da dove è la stagione che ha imposto Dolbic come centravanti, diciamo, all'attenzione internazionale, vogliamo dire. Incredibile. Adesso proprio sta girando male, a 7 punti insieme al Real Oviedo. Cambiamo campionato? Andiamo a vedere quello che è successo in Premier League, perché prima avevamo citato il fatto che c'è un barbiere che sta affilando le forbici, perché il Manchester United è arrivato alla terza vittoria consecutiva. Tra l'altro non ricordo il nome, tu ti ricordi il nome del tifoso? Però segnalo che il tifoso è stato bullizzato per la sua acconciatura da un altro tifoso del United che è stato radiato dalla zona dell'Old Trafford. Sì, lui il tifoso del Manchester United si è scagliato contro questo altro tifoso col bullo, dicendo che sta prendendo in giro, col suo modo di fare sta insultando la squadra. Cioè, nulla di questa storia, quindi ci vuole che me la spiegate dall'inizio. Allora, c'è un ragazzo, ma non è uno youtuber, è un normalone, che ha detto: adesso non mi faccio più barba e capelli finché non facciamo 5 vittorie consecutive. È impresentabile, perché è tantissimo che non fanno 5 vittorie, ma è veramente brutto da vedere, scomodo da guardare, fa male agli occhi. E un altro tifoso del United gli ha recentemente imbruttito guadagnandosi un daspo a vita. Allo stadio, cioè sto tifoso è andato allo stadio, ha inseguito quello col cappello, è anche abbastanza visibile perché c'è un bulbo alla caparezza ed era partito da capelli corti, adesso ormai ha il bulbo alla caparezza, e l'ha insultato perché sta prendendo in giro la squadra. In realtà siamo a 3 vittorie consecutive, quindi è tutto merito suo. Potrebbe arrivare finalmente la situazione. 4-2 la vittoria dello United in casa contro il Brighton, ai margini del progetto ormai. Joshua Zirkzee entra all'82esimo, risultato acquisito. E segnaliamo una grande gara di Mbeumo e Casemiro, Cugna, insomma, vabbè, la squadra c'è, lo sappiamo, lo sapevamo. E di là, con la maglia del Brentford, una vecchia conoscenza di tutti noi, classe 1990, Welbeck segna coi colori del Brighton. Altra cosa da segnalare invece è la crisi Liverpool. A questo punto si può definire crisi Liverpool. Liverpool in questo momento ha già perso lo stesso numero di partite in campionato della stagione scorsa, il totale della stagione scorsa. Perde ancora contro il Brentford, dopo aver perso col Manchester United. Una delle vittorie della sfilza del Manchester United era proprio contro il Liverpool. Perde 3-2 contro il Brentford e inizia a vedere volare l'Arsenal, scappare l'Arsenal. E qui è grande utopia Gunners. Una grande pagina di utopia Gunners, vittoria pur di misura contro il Crystal Palace 1-0, gol dell'ex Eze, che ha fatto le fortune del Crystal Palace nella stagione scorsa. Bellissimo giocatore, tra l'altro. E una grande pagina di utopia Gunners, sì, perché la classifica sorride e sorride un bel po'. In questo momento è a più 4 sull'inseguitrice, ma l'inseguitrice più diretta è il Bournemouth. E quella dopo è il Tottenham, che comunque non è che sia nota per essere una squadra che vince un sacco di trofei. Attenzione, però si è sbloccato vincendo la Coppa UEFA. Attenzione, sono gli astri che si stanno allineando, ma no. Raga, però, quando comincia a far freddo e l'Arsenal sta prima in classifica, vuol dire che sta andando tutto come deve andare. Poi succederà quello che deve succedere, arriverà il Festival di Sanremo dopo Natale, poi la Milano-Sanremo inaugura la stagione, no? Del ciclismo, andrà tutto come deve andare. Quindi sei tranquillo da questo punto di vista, nonostante sia anche al quarto posto il Sunderland, quindi un'altra squadra non particolarmente, insomma, con un nome non particolarmente forte, dal quinto posto del Manchester City. Si piazzano un po' quelle che sono state le dominatrici delle scorse stagioni, il City, lo United in questo momento pari, quindi insomma per lo United le cose stanno andando nel verso giusto, poi il Liverpool e Aston Villa e Chelsea, queste sono le squadre dalla sesta alla nona posizione. Sì, la classifica è abbastanza clamorosa e se guardi l'Arsenal in vetta è impressionante il fatto che abbiano subito soli 3 gol in 9 giornate in Premier League. Eh sì, sono pochi, parecchio. E questo effettivamente è un dato che cozza, diciamo così, con le statistiche che di solito insomma ci regala la Premier League. Allora, a me piacerebbe tanto che Arteta vincesse, cioè, perché è effettivamente uno di quegli allenatori bravi, dove per bravi si intende qualsiasi cosa di positivo si possa pensare di uno, cioè ha una progettualità, ha un'idea. Non si scoraggia, ancora giovane, si rinfresca sempre, dà fiducia ai giocatori più vecchi, dà fiducia ai giocatori, è pieno di bambini l'Arsenal, cioè gioca comunque con parecchi ragazzi insomma giovani di qualità, di prospettiva, e quindi sarebbe ora che un allenatore così, no, cominciasse ad imporsi, come sa quello che sta facendo De Zerbi in Francia, oppure non so adesso quant'è in classifica Farioli con il Porto, ma credo che stia facendo un buon lavoro insomma anche lui. E questo per allargare un po' il discorso, che ci sono anche allenatori italiani che possono avere idee più moderne, possono riuscire a portare avanti un progetto magari lungo, basato sulla gioventù che ti arriva. Sarebbe ora che uno di questi, insomma, vincesse poi. Mi piace molto che la linea di difesa titolare dell'Arsenal di quest'anno abbia Gabriel, il più vecchio, che è del 97, e tutti gli altri nati dopo il 2000, 2002 prevalentemente. Ha investito molto sulla difesa, quindi questo risultato di avere preso pochi gol è anche dovuto al fatto che, insomma, ascoltando le critiche di Simone Maloni, delle difese del campionato inglese, se... tu riesci a mettere una difesa in grado appunto di fermare gli avversari, può anche essere che l'utopia non sia solo l'utopia. La coppia di centrali dell'Arsenal è Gabriel Magalhães Saliba, che sfida a trovarne una più coriacea, più forte, più difficile. Sono velocissimi, grossissimi, tatticissimi, tecnicissimi, tuttissimo quando si parla di loro, cioè, gran progetto. E sugli esterni Timber e Calafiori, che comunque hanno mente lucida e piedi buoni. E gamba, e soprattutto gamba, con una frequenza di passi diversa. Tra Calafiori c'ha la falcata, quella molto elegante, potente, lunga, Timber è più elettrico, ma so due giocatori che sugli esterni, o anche per via centrale, insomma, ti fanno un sacco di danni. Hanno tirato Mingo per tornare all'NFL, hanno tirato su una defense veramente clamorosa. Sì, sì, infatti i risultati in questo momento gli danno ragione, sono 3 i gol subiti, insomma, chi è seconda, insomma, ne ha 7, insomma, quindi inizia già a avere un distacco, non a caso sono poi seconda e terza. L'ultimo appunto, non voglio fare il solito cattivo contro la Premier, però questo ti testimonia anche il fatto che con un minimo di organizzazione dietro, magari hai Saliba, e tu in Premier rischi di fare una gran bella figura. Vediamo, vedremo, quest'Arsenal inizia a essere interessante. Allora, segnaliamo che non ha segnato Erling Haaland, e allora andiamo in Bundesliga e non ha segnato neanche Harry Kane. No, impossibile, ma giocavano? Tutte e due? Giocavano. Incredibile, la prima volta direi ha vinto 3-0 il Bayern. Ok, ha vinto comunque, sì, solito 3-4-0. 3-0, quindi contro il Mönchengladbach in trasferta, rimane primo con 5 punti di vantaggio sull'Lipsia, che comunque continua a essere vincente, vince 6-0 contro l'Augusta. E rimane ultimissimo il Mönchengladbach in crisi nera, a soli 3 punti in stagione all'ottava giornata. Beh sì, quindi problemi grossi. È una super nobile del campionato tedesco questa qua, grosso nome questo qua giù. Capita nella Bundesliga, abbiamo visto l'Amburgo, lo Stoccarda, il mio Colonia, squadre comunque di livello, poter arrivare, a me fa piacere anche vedere la Premier League con nomi nuovi davanti, perché è stata ultimamente un po' dominata da un binomio di squadre, City e Liverpool, che si sono alternate. È ovvio che la ridistribuzione dei soldi tanti che arrivano nella TV inglese viene fatta per tutte le squadre che partecipano allo stesso modo, perché è il campionato che deve migliorare, e questo ti porta ad avere anche un'alternanza in vetta. E chissà a livello immobiliare invece come si muovono in Germania, perché sono curioso anche sulle società immobiliari quando partecipano ai campionati di calcio, come vanno, e non abbiamo troppe notizie dagli altri campionati. Va bene, allora andremo a vedere quello che succede invece nella nostra Giallo Juniper League, che è il campionato più amato da noi solo perché è organizzato in maniera clamorosa, e il Mechelen è ancora lì, vuole giocarsi le possibilità di vincere il titolo, pareggia contro il Leuven ma rimane al quarto posto, quindi una buona inizio di stagione. È ovvio che è lungo perché c'è tutto quello che è la post season. Per lo Standard Liegi una stagione non eccezionale, ma sempre all'interno del secondo gruppo, quello in cui succedono le cose. Alle Standard andiamo a Ghent, ne prendiamo 4, ma va bene lo stesso, perché la partita che era stata sospesa per lancio di cose in campo poi è stata recuperata e abbiamo vinto contro l'Anversa. Sì, lancio di bicchieri di plastica, vuoti dalla birra, il problema era che erano vuoti probabilmente. Cosa c'era dentro al bicchiere che sembrava birra ma non lo era? Ah, ok. Una cedrata del sidro di mele, non so, delle alternative. Ci sono alternative. Sidro di mele, perfetto. Allora a questo punto stiamo per chiudere, ci manca lo sguardo sul campionato di Serie C, che giustamente quest'anno abbiamo inserito nel calcio internazionale. Non è andata bene. Allora, mentre tutto il mondo era impegnato a guardare quella partitella che è il classico, noi altri invece soffrivamo perché, allora raga, cioè, tutti noi abbiamo perso tanto qua, no? Ok. Qual è il tipo di sconfitta che a voi fa più male? Perché ci sono vari tipi di sconfitta, tipo quella del Napoli in Coppa, no? Dici 6-2, fa male, è tipo un calcio sugli stinchi oppure sui maroni, che... però dura poco. Cioè, capito? Lo schiaffo in faccia, ti ripeti, organizzi e va. E invece tu quando perdi dominando la partita, quando tu perdi rimanendo in inferiorità numerica da 52esimo, tutto il secondo tempo, e giochi ancora meglio rispetto a quando stavi già giocando meglio di loro, quando tu ti divori per tre volte ad un metro dal porciere, letteralmente, Mingo, ad un metro, e per tre volte gli tiri addosso e poi la perdi, perché a proposito, mi rode dillo, il loro gol è davvero bello. Beh, deve essere veramente bello, lo vado a ripescare, perché se dice che è bello, bello, perché un passaggio filtrante dritto per dritto da centrocampo, per non mi ricordo il nome dell'attaccante che fa da boa, di tacco, quindi fa un movimento a girarsi di tacco che libera lo spazio per Milanese che entra, sbagliano i due centrali, poi scavettola sotto sul porcino, uscita, gran gol, posso dire, gran gol. E detto questo, come meglio il loro gol, la Samba ha giocato da Dio, i ragazzi sono mostrati degni della maglia che indossano, c'è niente da dirgli, cioè, hanno giocato bene, però non si colpevolizza nessuno. Se però tu prendi, tu coach Paladini, prendi Novan Touré e tu gli dici, tu lo smetti di allenarti e da qua alla prossima partita non fai altro che tirare in porta su tutti i quattro gli angoli possibili immaginabili, tu gli fai fare soltanto quello lì, ok? Solo quello, finché tu a occhi chiusi non la, cazzo, all'incrocio dei pali oppure ammassi il porciere quando è ora, perché ieri tu lo devi buttare in porta con tutto il pallone, no, va bene, ok? Niente, complimenti anche dall'allenatore avversario che è Tomei, che è un grandissimo allenatore. Abbiamo giocato bene, ma abbiamo perso contro quelli lì. Però, però c'è, c'è la possibilità di rifarsi. Esatto, la squadra c'è. Sono le ultime due partite contro Ravenna e Ascoli, le prime due delle prime tre in classifica. Hai giocato meglio, ma le hai perse entrambe, perché non sei incisivo sotto porta. È soltanto lì il problema, perché la squadra c'è, gioca bene, crea le 5-6 palle da gol ogni partita. Niente da dirgli, ieri il De Duca pienissimo. Ho amici che mi riportano tra testimonianze, immagini e anche racconti. Si sentiva un'area molto tesa, Pullman della Samba scortato da una decina tra camionette e macchine della polizia, ma accolto al ritorno e anche alla partenza dallo stadio da migliaia di tifosi tra fumogeni. Sembrava che stesse andato a giocarsi a finale di Champions, ok? Davvero bello. Quest'ora cerchiamo di allentare un po'. Perché ieri, se ci fossero potuti stare i ragazzi della Nord, ieri vi assicuro che siamo ad un livello, tra virgolette, siamo ad un Boca River in piccolo, ok? Cioè, se vogliamo rinunciare a una cosa del genere, fate voi. E segnaliamo che la classifica è... canta abbastanza, perché le tre davanti hanno fatto il vuoto dietro di sé. Capolista in questo momento è l'Arezzo, seguito da Ascoli e Ravenna. Tra l'altro, Ravenna ieri ha vinto con gol di Stefanone o Cacaciuca. Bella lì. È vero, no? Che è tornato a Ravenna. Mi piace molto quando uno vuole giocare a pallone. Abbiamo perso contro due, la seconda e la terza, giocando meglio. E con Ravenna derubati addirittura. Sì, sì. Abbiamo visto che Ravenna comunque è pari all'Ascoli, al secondo posto. Si ferma l'Arezzo, che pareggia con la Ternana, che comunque è la quarta forza del campionato. Quindi 1-1. Esatto, un bello scontro al vertice. E niente, per finire, ragazzi, vi volevo bene. Siete stati bravi, vi volevo bene. Forza, adesso c'è la Coppa Italia di Serie C, credo che sia meno importante, ma essendo quella partita lì diventa importante. Non so che darei per essere giù, ma non si può per altri motivi. Io voglio proprio vedere come sarà il Riviera delle Palme mercoledì, perché mi immagino sia qualcosa di che non vedevo dagli anni '80, che ero un bimbo, insomma. Congiura, perché gioca anche il Bologna mercoledì. Allo stesso orario? Giocherà la sera, non credo. Ricordo, non beh, penso di sì. E questo è appunto quello che è successo in Serie C. C'era il derby, dovevamo un po' parlarne. Facciamo i complimenti al Mialbi, ne avevamo parlato nelle scorse puntate. Era già quasi, aveva vinto quasi lo scudetto svedese, una cittadina da 1700 abitanti. Adesso io avevo visto 17.000, non so perché tutti hanno riportato 1700, non vorrei che avessero perso 1-0, perché è come se fosse la squadra di San Lazzaro con lo stadio al Farneto. cioè è in una frazione di un piccolo comune, quindi questo rende tutto ancora più epico e surreale. Sì, tipo in eccellenza qualche anno fa, cioè, esatto, in crescita e vincono il titolo. Tra l'altro facciamo i complimenti all'Osservatore, che è il postino della città, e quindi importante, che ha detto che passa al part time per dedicarsi un po' di più al pallone, per seguire un po', perché c'è la Champions da fare, c'ho le preliminari di Champions, sì, ci sono in Europa, insomma, si allarga insomma il campo di competenza, insomma ci vuole più tempo, ha ragione. Però un giro la mattina lo fa lo stesso, perché la frazione ha bisogno di posta. Sì, sì, bisogna recapitare le letterine, quindi comunque lo avranno la mattina come postino. Bene, direi che abbiamo concluso, no? Non c'è altro da aggiungere. Ci fermiamo un attimo e poi frittatore mista di sport, si parlerà anche di Virtus. Eh sì. Ve lo dico. Ci tocca. Ultima parte di Caffè Paglia di quest'oggi. È tornato con noi il super esperto di Formula 1. Brum brum. Ciao. Brum brum brum. Grande Gozza, bentornato. Buongiorno a tutti voi. Niente, parliamo di Formula, no? C'è stata la Formula 1. Che mi affianca oggi, perché. C'è stata la Formula 1 e è uno di quei casi in cui il bicchiere è mezzo pieno, lo diciamo subito. L'annata è quella che è, quindi se vogliamo trovare delle buone notizie sono buone così, non più buone di così. Esatto, quindi sì, dice mezzo pieno, nel senso che devo dire che sì, un secondo posto per Leclerc, aiutato anche dalla fortuna, perché c'è stata una virtual safety car quando praticamente Verstappen stava per sorpassarlo, aveva già messo la freccia, io l'ho visto. E quindi nonostante che qualche giro prima, come giustamente diceva qualcuno, mentre uno segue le gare di Formula 1 e dormicchia, dice ma ci sono 8 secondi di differenza, in breve tempo Verstappen gliel'ha mangiati, ma probabilmente Leclerc, diciamo, negli ultimi giri ormai non ne aveva più, da un punto di vista, anche perché è stato uno di quelli che ha fatto un solo cambio delle gomme, ma l'ha fatto anche Verstappen, come Norris del resto, da quello che mi risulta. Quindi questa virtual safety car, che è arrivata così con una benedizione per Ferrari, e praticamente a 3 giri dalla fine della gara ha permesso a Leclerc di mantenere la seconda posizione, e quindi Norris primo, secondo Leclerc e terzo Verstappen. Un Verstappen che molti avevano dato per favorito, no? Prima della gara, ma probabilmente la Red Bull non è riuscita a mettere a posto la macchina in questo circuito messicano, che sappiamo primo è a 2200 metri d'altezza, e quindi sappiamo che le condizioni atmosferiche nella pressione mettono in difficoltà anche i motori. Poi oggi le tecnologie permettono anche di mettere a punto le macchine anche in queste condizioni. Una Red Bull che nel cosiddetto snake, perché anche a Città del Messico c'è uno snake, una serie di curve che sembrano un serpente, come c'erano nel circuito precedente ad Austin, dove lì nello snake Verstappen era velocissimo, qui invece era uno dei punti dove perdeva terreno, quindi non è riuscito a fare la pole, è partito nella quinta posizione in griglia alla partenza del Gran Premio, che ha anche, diciamo, guadagnato un posto, no? Perché mi sembra che Sainz è stato squalificato per un problema nel Gran Premio precedente, e quindi aveva perso, che si era piazzato bene Sainz. Devo dire che ultimamente Sainz, benché corra con una Williams, sta facendo molto meglio di Albon, anche se poi ieri si è ritirato negli ultimi giorni, negli ultimi giri, e la causa anche della virtual safety car è stata l'uscita di pista di Sainz, che forse così con spirito ex ferrarista ha dato una mano involontaria alla Ferrari per portare a casa la seconda piazza. E quindi così un circuito di cui ne abbiamo già parlato altre volte, come sapete io amo anche commentare i circuiti, non solo le gare, questo circuito messicano che è arrangiato tra un vecchio campo da baseball e altre cose, è un circuito particolare da un punto di vista di come è strutturato, però diciamo da spettacolo. Poi c'è la premiazione, no? Arrivano, poi devono andare nell'arena dell'ex stadio per le premiazioni, cioè tutto un avanti e indietro comunque. Oltre al pubblico di ubriachi, che comunque è affascinato. Ce n'erano, è vero, è vero. Okay. Che di solito lì c'è 0,0, ma in Messico. No, no, c'era una bella ciucca. C'era una bella ciucca all'autodromo dedicato ai fratelli Rodriguez. Quello è un tracciato con grande personalità e nell'epoca della Formula 1 a carburatori, il correre in altezza tagliava in percentuale sulla potenza sottigliando la forbice tra i grossi, pesanti e potenti V12 e le macchine coi V8. Quando c'era il motore Ford, Cosworth, che motorizzava i team minori, soprattutto i costruttori inglesi, e quindi era sempre una gara vincente. E anche questo circuito io è uno di quelli che terrei con ogni mezzo necessario. Sì, ma no, è interessante come circuito, eh. Sembra un circuito arrangiato, no? Non so, mi viene da dire così, nel senso un po' arrangiato rispetto anche, diciamo, come è stato disegnato in base delle esigenze di riutilizzare soprattutto lo stadio del baseball, che adesso ne hanno fatto uno nuovo, che oltretutto dalle immagini dall'elicottero si vede quello nuovo che è lì sempre in zona. E l'altra cosa che mi ha colpito è perché mancava Perez, no? Che c'erano molto i cartonati con Perez. Sapete, adesso ultimamente va di moda il cartonato, no? I tifosi sono negli spalti con questi cartonati, le varie facce dei piloti, eccetera. C'era anche il cartonato a misura d'uomo di Perez e dei cartelli che dicevano: Perez il prossimo anno sarà con la Cadillac, perché Perez sarà di nuovo in formula l'anno prossimo. La Cadillac ha fatto delle scelte di piloti diciamo che sono attualmente fuori dal circo della Formula 1. Qualcuno ha detto: ma perché puntate su quei vecchi? Ma perché poi i vecchi hanno dell'esperienza, e per una Cadillac che diciamo c'è un esordio in Formula 1, è importante anche avere delle persone esperte che ti aiutano a sviluppare una macchina, visto che sei un debuttante. È lo stesso percorso di Hülkenberg in Sauber Kick adesso, per esempio. Sì. Ordine d'arrivo che spariglia un bel po', perché Norris domina il weekend, dalle qualifiche alla gara è davanti a tutti con buon margine, ottimo secondo posto, con un bel contributo della virtual safety, lo abbiamo già detto, per Charles Leclerc. Sai che adesso Norris è in testa alla classifica piloti. Eh sì, un punto davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, che arriva quinto davanti addirittura Berman sulla Haas, che fa una gara incredibile. Infatti una delle cose che sono notate è che in questo circuito, diciamo, le scuderie minori avevano dei numeri. Sì, segnaliamo anche per la prima volta in stagione Antonelli arriva davanti a Russell. Sì. Segnaliamo buone gare di Ocon e Bortoleto, che comunque arrivano nei 10. Tutto questo ci racconta che Verstappen avrebbe guadagnato punti su Piastri se non fosse che Norris manda in scacco tutti e due. 357 i punti di Lando Norris, uno di vantaggio, 356 quelli di Piastri, 321 quelli di Verstappen, che ci dicono che il campionato comunque è ancora aperto grazie solo alla grinta, alla tempra e le capacità di guida di Max Verstappen. Eh sì, perché come abbiamo già detto più volte, un Verstappen che guida una macchina che in teoria non aveva più i numeri, la Red Bull, e sicuramente negli aggiornamenti, nei miglioramenti che sono stati fatti negli ultimi periodi, qualcosa è andato meglio. Poi vediamo che l'altra guida del giapponese, che qualcosa è migliorato anche lui per certi aspetti, anche se l'anno prossimo mi sa che non sarà più con la Red Bull. Direi proprio di no, non ha fatto molto per meritarsi la riconferma dopo lo swap tra Racing Bull, Red Bull, che io mi auspicavo, perché mi aspettavo molto di più la Tsunoda. Una cosa, giusto per chiudere così, di gossip o di curiosità, gossip non, la Red Bull è stata multata di $50,000 perché la McLaren con Norris, i meccanici della McLaren sulla griglia di partenza, per evitare che Norris sbagli a collocarsi sulla piazzola, i meccanici della McLaren mettevano una striscia di nastro adesivo su, sai, ci sono tutti i tabelloni con le pubblicità, per dargli l'indicazione precisa di dove fermare la macchina, perché sapete che se tu la metti male la macchina puoi avere delle conseguenze, delle penalità, quindi se superi la riga bianca eccetera. E quindi per aiutarlo nei riferimenti i meccanici della McLaren mettono questa striscia, che già da un po' che lo fanno. Ad Austin quei burloni della Red Bull, che chiaramente provano di tutto per avvantaggiare il loro pilota di punta, avevano tentato di staccarla e sono stati beccati, e forse non era neanche la prima volta che lo facevano. Altro che quelli della McLaren utilizzano un nastro che è simile a quello della vignette per andare in autostrada in Svizzera, che tu lo attacchi, no? Ma non lo puoi staccare, perché se lo stacchi si scompone, no? E quindi li hanno beccati a tentare di staccare, in più non l'hanno staccato perché la pippa che gli hanno fatto quelli della McLaren è di utilizzare un nastro che non è, che se anche provi di staccarlo rimane attaccato, cioè qualcosa rimane, ecco. E quindi 50.000 dollari di multa, e forse io ho sentito che erano anche di più, però alla Red Bull per questo tentativo di depistaggio a Norris. Questo per dire, sono quelle cose di cui parlano in pochi, anche perché bisognerebbe a volte seguire anche i post gara, perché nei post gara vengono fuori delle cose di cui nessuno più parla, che sono soprattutto queste multe, queste infrazioni, queste contestazioni, che probabilmente interessano il giusto alla massa, ma gli esperti, quelli che seguono con più attenzione anche nei minimi dettagli la Formula 1, poi te le vengono a raccontare. Andiamo molto velocemente in MotoGP per segnalare Malesia, Gran Premio di Malesia, incidente bruttissimo in Moto3, ma si corre lo stesso, fortunatamente con conseguenze meno estreme di quelle che sembravano dalle immagini, ma veramente molto molto molto brutto. Si corre lo stesso, corre la MotoGP, il campionato è già chiuso, vince Alex Marquez con una KTM e una Honda sul podio, le due squadre e le due scuderie più in difficoltà di quest'anno. Honda che ha disinvestito parecchio sulle corse in generale, e KTM che affronta una crisi produttiva drammatica con i piazzali pieni di bicicletta pedalata assistita che senza incentivi pubblici non si riescono a vendere a prezzo di cartellino. Questo è quanto dalla MotoGP, che ormai quest'anno ha già regalato tutto quello che poteva regalarci. Ho visto che Bagnaia ha forato? Sì, Bagnaia. Cioè, quando capita di forare i MotoGP? Poco. C'è un proverbio siciliano, palermitano in particolare, che dice che il cane morde sempre il più stracciato. Cioè, quando uno è messo male, passa un cane, morde lui. E Bagnaia quest'anno ce l'ha avuto proprio. Piove sempre sul Bagnaia, possiamo esatto, dirlo. Esattamente. C'era anche il Daya Kalkan, che era una roba simile. Come assomiglia, sì. Esatto, del bolognese. Bene, grazie Andrea. E a questo punto chiudiamo la parte dei motori e apriamo la parte della pallacanestro. Allora, io qui ho paura perché vedo una Virtus clamorosa. E allora la cosa più migliore da fare per esorcizzare questa cosa è chiamare Burt, il nostro caro vecchio Burt. Burt, grande Burt, abbonato Virtus, ricordo che è già intervenuto a Caffè Paglia dopo ogni striscia vincente della Virtus. Solo nei bei momenti. Solo nei bei momenti, e subito dopo di solito c'era una sconfitta. Quindi abbiamo detto proviamo, perché questa Virtus quest'anno è partita veramente bene. Ma sì, dai, allora, buon inizio d'anno tra i migliori di quelli che ci possiamo ricordare a medio breve, da Sabatini in poi, che è un'altra Virtus, è un altro mondo, però quest'anno ci siamo già tolti tre belle soddisfazioni in casa, perché l'Eurolega, anche se non conta niente per noi, però almeno da abbonati ci dobbiamo divertire. Abbiamo vinto Real, Monaco e poi Pana. E stiamo parlando di squadre che vanno spesso alle Final Four, ecco, sono le squadre migliori. È vero che le squadre che puntano alla Final Four partono di solito un po' più scariche e crescono nel corso dell'anno, no? L'abbiamo visto anche negli anni scorsi. Il Real Madrid in questo momento non sarebbe ai playoff, e non credo che finirà così. Ma no, ci sono 38 partite quest'anno, è tipo la maratona delle maratone, perché hanno aumentato le squadre per incassare i nostri amici di Eurolega, però hanno, invece che fare due gironi tipo NBA, perciò fai 18 partite, no, hanno fatto girone unico, tutti devono incontrare tutti, 38 partite, e alla fine conteranno una trentina di partite. Sì, soprattutto quelle finali. In realtà la partenza, come dicevi, è molto positiva, vittoria anche in trasferta, nel doppio confronto, dopo aver battuto Monaco, vittoria con Villeurbanne. Poi è arrivata la partita con Cremona, Cremona che in quella settimana è diventata Basket City, perché ha battuto tutte e due le squadre bolognesi. E infatti avevo sentito della Fortitudo, ho detto no, ma noi invece siamo noi. Esatto. Ma classica partita da ennesimo scontro, la terza partita o la quinta partita in 12 giorni, arrivi che così a luci spente e vai a finire contro un muro. Lì è stata veramente clamorosa, una delle strisce senza segnare, un break di 30 punti, una cosa del genere. Sì, no, ha fatto tipo 28-0, poi 35-2, e poi noi ci guardavamo uno in faccia all'altro a dire, cioè, faran paniera a un certo punto, no? Perché eravamo venuti per quello, tipo. Esatto, pallacanestro si chiama. Del resto, se vogliamo parlare del lato Fortitudo, abbiamo vinto la partita a 55. Bellissimo, bellissimo. Un momento di sport per tutti, proprio tipo il calcio camminato, cioè ti racconta che il basket è quello sport a cui possiamo giocare anche noi. Sì, può essere. Io giocavo infatti. In quello sport lì magari ancora uno spazio, tipo Willy secondo me potrebbe ancora giocare a buon livello. E 55 punti contro una squadra, Verona, che era comunque quotata, quindi contro una squadra forte. Era una delle capoliste. Ne ha fatti 47, ecco, questo in una meravigliosa partita di non basket. Torniamo alla Virtus che ha preso un giocatore che a me è sempre piaciuto tantissimo, lo seguivo quando era giovane rookie a Boston, nella mia squadra del cuore in NBA, mi piaceva già, era in effetti un po' bassetto per giocare stabilmente in NBA, ma ha una forza fisica clamorosa. Questo è un running back prestato alla pallacanestro. Allora, Carson Edwards, proprio da running back, tiene la palla da basket così, fa delle entrate clamorose, c'ha due gambe, io ho mai visto due gambe così. Ieri sera sono andato, sono sceso giù a vedere, sì, all'ultima partita, a vedere da vicino, c'ha le gambe storte da calciatore o cavallerizzo, non so, però sono enormi. Allora, bellissimo giocatore, soprattutto perché è uno di quelli, adesso abbiamo visto poche partite, però fa sempre il paniere nel momento importante, cioè lo vedi, cioè per chi ha visto purtroppo come noi milioni di partite, perché ormai iniziamo ad avere una certa età, esatto, cioè lo vedi che farà paniere, lo sai, perché in quei momenti lì si alza e va. Del resto l'anno scorso è stato capocannoniere dell'Eurolega con il Bayern Monaco, quindi insomma non è che l'abbiamo scoperto noi, però è veramente un giocatore interessante. In più c'è questa nuova linfa verde italiana, i due che insomma si sono fatti vedere anche in nazionale, Niang e Diouf, che fanno pensare comunque a una progettualità. È vero che questi forse in NBA potrebbero andarci. Allora, bravi tutti e due, contenti di averli presi, perché bisognava un po' svecchiare la squadra, saltano, corrono, hanno voglia e è un bel vedere. Allora, Diouf ha già dimostrato l'anno scorso che può stare a un buon livello, NBA secondo me dovrebbe lavorare un po' di più su tutta una serie di movimenti eccetera. Forse andando avanti con la carriera, stando un po' in Italia, un po' in Europa, perché comunque è giovane, però deve mettere su più movimenti. Niang ha un fisico incredibile, di quelle gambe lunghe da saltatore, però anche lui, ecco, mi fa un po' impressione, io tutte le volte che fa un cambio di direzione ho paura che si faccia male una caviglia. E allora bisognerebbe capire, se mette su tanti chili può anche andare di là, con un fisichino così asciutto ho paura che faccia un po' fatica, di rimanere qua, sì. Che magari può spostare di più qua. Pare che anche il fratello sia molto forte, il fratello che è a Trento, dove era Saliu Liang prima di venire alla Virtus, ne parlano molto bene, più giovane. Ho visto una partita sola, però che era l'esordio, 17 anni, una schiacciata che ormai si porta il ferro a casa. Dicono che sia più forte lui del fratello, da vedere così a 17 anni sicuramente un prospetto, anche perché tira, insomma, ha già un bel tiro, mentre Niang ha un tiro un po' veramente molto costruito, adesso ancora un po' lento, perciò ti può fare il canestro da tre nell'angolo sullo scarico, però insomma ci deve lavorare. Il fratello l'ho visto già con un movimento, è un po' più piccolino e forse più guardia che ala. Ovviamente l'altra squadra, quando si parla di pallacanestro italiano, è ovvio che in questo momento ci sono due grandi squadre che si contendono spesso le finali, non sempre, quest'anno ad esempio non è stata così, è Milano. Milano ha fatto un super mercato, come spesso capita, però non sembra avere creato quell'amalgama. È un po' di anni che Messina ci prova, ma soprattutto a livello di Eurolega, diciamo così, con pochi risultati. Allora, Milano partita sicuramente molto lentamente, direi il record opposto alla Virtus, invece che 4-2, 2-4, perciò ne ha perse 4 e vinte 2, e tanti soldi, riescono sempre a fare dei grandi mercati, hanno avuto anche un po' sfortuna, diciamo così, perché sempre dei gran infortuni, però ecco, io quest'anno veramente non ho capito, fai venire un allenatore da Brescia, poeta che ti ha portato una squadretta o comunque, cioè, una squadra di fascia media in finale scudetto, lo prendi perché probabilmente hai capito che il buon Ettore deve ringraziare, fare altro tipo di attività, casomai dirigenziale, e invece rilasci in mano a Ettore, che gioca più o meno sempre nel suo modo, però un pochino il basket è cambiato. Eh sì, purtroppo siamo arrivati al termine, abbiamo una notizia, rimaniamo in bianco nero. Una bella breaking news. Rimaniamo in bianco nero e poi lasciamo lo spazio all'informazione di Popolare Network. Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus, soluzione probabile ad interim Brambilla, allenatore della Next Gen, scelta che credo su cui ci sia poco da dire. Ci risentiamo lunedì. Yeah.